Avete presente quelle cose che le pensi e le ripensi e sai che qualcosa andrà storto? E andrà storto per il semplice fatto che ci stai pensando da troppo tempo ormai. O forse perché la cosa più strana che mi sento addosso non è l'abbigliamento da sci, ma il fatto che dopo anni sto facendo tutto questo non per me, ma solo ed esclusivamente per lei. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e quasi 8 minuti. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Anna Rita, le montagne russe e l'amore. Partiamo per un paio di giorni per Garda, con un gruppo di amici. Destinazione esatta, Gardaland. Io non sono una grande amante dei parchi di divertimento, per cui già parto sapendo che non proverò la metà delle attrazioni. Poco male, regalerò i miei ingressi alla mia dolce metà, che invece non vede l'ora di salire su quelle più nuove e più devastanti. Passo una bella giornata. Sequoia Adventure, Colorado Boat e tante vocine che mi ripetono: dai, dai, prova la Magic Mountain, sono bellissime, non fanno paura, non fanno star male, durano pochissimo, dai, provale, dai, dai. Alla fine mi faccio convincere, mi metto in coda per l'inferno insieme al mio ragazzo. Lui cerca di tranquillizzarmi dicendomi che dura veramente un attimo e che sarà molto divertente. Arriva il nostro turno. Dove ci mettono? Nella seconda carrozza. Partiamo, il primo tratto è lungo meno di 10 metri, è pianeggiante. Il secondo tratto invece è in salita, ripidissimo, e io comincio a dire che non dovevo salirci qui, che ho paura e non lo dovevo fare. Guardo lui che mi sorride mentre lentamente e inesorabilmente ci avviciniamo alla vetta. Ormai è fatta, non posso più scendere, non ho alternative, morirò. Quando raggiungiamo la vetta io sono già fuori di testa, lui continua a cercare di tranquillizzarmi, però è troppo tardi, comincia la discesa. Gli avvitamenti, e poi non so cosa, so solo che gridavo come una pazza, aprivo gli occhi di tanto in tanto per vedere lui che invece si divertiva e rideva. Non saprei definire quanto sia durata quella tortura, ma è finita di colpo. Sono scesa in stato confusionale, le amiche mi sono venute incontro e mi hanno detto: «Allora, ti è piaciuto? È bello, no?» E io come una fessa ho mostrato a loro le mani che tremavano. Volevo sorridere, ci ho provato con tutta me stessa, e invece sono scoppiata a piangere. Il mio ragazzo mi ha abbracciata e mi ha detto che era finita, di stare calma, che era finita. Dopodiché, mi hanno portato sulle tazze. Le tazze, per chi non lo sapesse, sono quelle cose a forma di tazza che girano su un pannello che già gira in un senso e tu all'interno con una specie di maniglione puoi farle girare nell'altro senso. È molto più da vomito le tazze che non le Magic Mountain. Io ringrazio Anna Rita per la mail che mi ha scritto oggi. Le avevo chiesto: dai, raccontamelo tu in diretta. Lei però mi ha detto: non ce la faccio perché ho una riunione. E mi ha scritto dettagliatamente questa cosa che fa parte di quella categoria di attività che danno oggi il titolo alla puntata, che sono: l'ho fatto solo per amore. 800240024 349-238-6666. Chiaramente non accade a caso, accade perché sto per andare via un fine settimana a fare una di queste cose qua, le cose che fai solo ed esclusivamente per amore. Tutto è cominciato ieri e proseguirà domani, e quindi avrò modo di raccontarvi meglio sia più tardi sia lunedì come è andato questo fine settimana, che fa parte di quel gruppo di cose lì, no? Le cose che si fanno solo per amore, che sono simili a quelle che mi hanno scritto poi alcune persone su Facebook, come Marco, che mi dice: tutto l'anno scorso a sciare su tutte le piste nere di Santa Caterina Valfurva dopo 15 anni dall'ultima volta. Niente di rotto, una sola caduta l'ultimo giorno che mi è costata un mese senza poter correre. Lo rifaccio quest'anno. Chiara: ci ho rimesso un ginocchio facendo sci alpinismo, me lo sono rotto in un bosco, mi hanno portato giù dei baldi giovani con una specie di barella fatta con gli sci e pelli di foca. Però valgono tutto e non valgono solo le attività sportive, valgono le attività culturali. Ad esempio, io ricordo con grande affetto mio padre che fa l'abbonamento al Teatro Coccia di Novara insieme a mia madre, e lo fa per, credo, ma forse più di 5 anni. E vanno al Teatro Coccia di Novara tutte le volte che c'è uno spettacolo, perché essendo abbonati ci vanno, ci hanno la sera prefissata, che mi pare fosse la seconda, che cadeva quasi sempre il mercoledì di Coppa, quando esisteva il mercoledì di Coppa. E mio padre ogni giorno mi guardava e mi diceva: ma non è che ci vuoi andare tu con la mamma? No, lo dico perché magari c'è uno spettacolo che vuoi vedere e non te lo vuoi perdere. Lui potrebbe chiamare a raccontarmi che quella roba lì l'ha fatta solo per mia mamma, chiaramente poi facendo incazzare a morte mia madre. Tommaso: andare a casa sua a vedere Amici di Maria De Filippi solo per stare con lei. Faccio notare che io vivo senza televisione per scelta. Adesso che ci penso, questo non è amore, è sadismo questo. Cioè, dipende dai punti di vista. 800240024 oppure l'SMS al 349-238-6666. Le robe che avete fatto solo per amore. Anche magari creare un profilo Facebook finto, ad esempio. Dopo ne parliamo del profilo Facebook, cioè finto, il profilo Facebook di Michela Pesca. Dopo dedico un paio di minuti perché c'è molto fermento da quel punto di vista. Comunque io sto per partire per questo fine settimana e ieri ho dovuto prepararmi. Ho dovuto prepararmi perché avevo capito che si stava avvicinando uno di quei momenti in cui non avrei potuto dire di no. E tutto è cominciato così. No, assolutamente, non mi disturbi, dimmi. No, questo weekend sono tranquillo. Sì, certo. Volentieri. Ma dove? Ok. C'è già la neve? Ma dai, sono già aperti gli impianti anche. Ottimo, magnifico. Guarda, facciamo... Oh, io venerdì sera dopo la diretta posso partire. Ha voglia che so sciare. Mie, come no, certo. Cioè, è da un po' che non scio, però... figurati. No, cioè sciavo da piccolo sciavo un sacco. Sì, poi non ti preoccupare, guarda, ti stupirò. Spero, insomma. Dai, ok. Ci sentiamo o più tardi o comunque venerdì mattina per venerdì sera per partire. Perfetto. Ok. Un bacio, grazie. Ecco qui. Perfetto. Ora sono nei guai. È andata così. Ieri mi ha telefonato Natalie. Mi ha chiesto se avevo voglia di passare il weekend con lei. È chiaro che io non ho esitato nemmeno un secondo a dirle di sì. Anche se lo so, avrei dovuto lasciare passare un giorno almeno per far finta di doverci meditare su un po', no? Dover spostare 1000 appuntamenti, potermi liberare. Però è più forte di me, non ce la faccio. Un attimo dopo che ho detto di sì, lei ha annunciato che saremmo andati a sciare. Ovviamente dava per scontato che io sapessi sciare. Poi, dopo aver sentito la mia pausa al telefono, mi ha chiesto: ma sai sciare, no? Ora, io non è che non sappia sciare, cioè, io sapevo sciare anche bene, è solo che non lo faccio da un po' di anni. E io so come vanno a finire queste cose. Finiscono che lei è sicuramente una di quelle ragazze che sciano da quando hanno 4 anni, che ha tutta l'attrezzatura nuova e perfetta, però non nuova che luccica, no? Quella fa un po' sfigato. No, quella nuova però che è già un po' vissuta. Sicuramente lei scia divinamente ed è pure bella da guardare. Così bella che attorno a lei possono sciare solo persone che si muovono armoniosamente, con il garbo di Pina Bausch e la forza di Hermann Mayer. E io, invece, che sciavo con gli sci di 2 metri, sembrerò il gatto delle nevi, quello con gli stivali però, a spazzaneve, con le racchette larghe e le gambe di gesso. Quindi, ieri ho fatto quello che in questi ultimi anni faccio sempre, no? Quando mi devo documentare su qualcosa. Sono andato su Google e ho scritto lezioni di sci. E il primo video che mi è apparso è stato questo qua. Imparare a sciare non è mai stato facile come in questi ultimi anni. Merito delle piste, che sono sempre più facili. Merito dei moderni sci corti, detti carving, che rendono i gesti più naturali. Poi ho proseguito la ricerca e sono arrivato alla prima lezione, quella in cui la prima cosa che fanno è insegnarti a salire la montagna a scaletta. E poi ti dicono: una volta che sarai arrivato in cima alla pendenza, gli sci verranno disposti con le punte a valle. Certo. Ora sentirai una leggera accelerazione che ti porterà verso il punto in cui sei partito. E così è facile, sembra. Non prendere paura. Rimani disteso con le gambe. L'accelerazione e anche un po' di tensione tenderanno a farti arretrare con l'assieme busto-spalle. Cerca di prevenire questo arretramento avanzando con decisione la testa e le spalle. Non sederti, devi stare su con il sedere. Ora comincia a divaricare le code e ripeti l'operazione effettuata prima nel piano. Ecco, questa era la prima lezione. E poi c'era la seconda, che invece era tutta dedicata allo spazzaneve. Mentre scendi a spazzaneve, prova a rispondere a queste domande. Pure. Qual è il piede sinistro? Anche le domande. E il braccio sinistro? E l'anca sinistra? E la spalla sinistra? Il lato interno dei tuoi piedi gratta la neve? Può grattare di più? C'è un ritardato mentale. Può grattare mentale. Di meno? Le tibie sono appoggiate alle linguette degli scarponi? Sì. I polpacci sono staccati dalla parte posteriore dello scarpone? Sì, proprio tutti i dettagli. Tieni conto sempre della tua preparazione atletica. Non avere fretta a provare esercizi sulla neve, no, se prima non hai preso confidenza con l'attrezzatura, con gli sci e gli scarponi. Ecco, solo a vederle queste cose mi sentivo già un imbecille. Poi ho realizzato che se non mi fossi procurato tutto il necessario, sarei stato un imbecille senza manco l'attrezzatura. Quindi ieri dopo il programma ho preso e sono andato a comprarmi, non dico una parte, no, dico proprio tutto. Ah, Ecco, c'è qualcosa più imbarazzante che arrivare sulle piste con tutta l'attrezzatura nuova? Ma ve lo dico io, la risposta è no. E lo so bene perché è una cosa che io ho sempre patito molto, sin da quando ero bambino. Tipo presentarsi sul campo da tennis con il completino bianco, ancora con le pieghe perfette. Oppure al corso di chitarra con lo strumento lucido, come se fosse parquet. Roba che tutti ti guardano e pensano, eccolo qui, è arrivato quello nuovo. Ieri però ho messo sulla bilancia le due opzioni, cioè presentarmi sulle piste con i jeans e il Kiway, oppure con la giacca a vento e gli sci nuovi, e ho optato per la seconda. Allora ho chiamato Pietro, il mio amico che fa il maestro di sci, perché tutti abbiamo un amico che fa il maestro di sci. Gli ho chiesto di accompagnarmi a fare shopping e mi sono tuffato nel vortice. Se già i negozi in genere su di me hanno un strano fascino subdolo, i grandi negozi sono al limite della circonvenzione. È come se tutti quegli oggetti lì in mostra mi chiamassero, mi dicessero: ehi, psst, psst, ehi, guarda come sono luccicante, guarda come sono bello, sono perfetto per te. Al supermercato, ad esempio, quello vicino a casa mia, mi ci sono abituato, uso una tecnica infallibile. Tengo gli occhi fissi al carrello e guardo solo gli scaffali che mi serve guardare. Però ogni volta che entro in un grande magazzino di articoli sportivi, poi, è la fine. Il mio amico Pietro mi ha portato al negozio dove lui si rifornisce da anni e dove quindi conosce tutti quanti i commessi. Ha annunciato alla commessa, alla prima commessa, che dovevo comprarmi tutto. E lei ha fatto un sorriso che chiaramente mi ha ricordato quelli del corso di tennis e di chitarra. Oh, eccolo qui, è arrivato quello nuovo. E allè, giù a comprare. Ho provato una giacca a vento azzurra e gialla con degli inserti Catalin freggenti. A Pietro non dispiaceva, nemmeno la commessa che ha bofonchiato una roba tipo: ah sì, poi lui è alto, gli sta proprio bene. Io ho detto che dovevo andare a sciare e non lavorare sull'autostrada, me ne sono preso una blu scuro. Poi siamo passati al reparto sci e scarponi. E qui ogni resistenza ha ceduto di schianto. Gli scarponi erano coloratissimi, con ganci luccicanti, tutti fatti di materiali nati dalle ultime ricerche scientifiche, a metà tra il carbonio e il Kevlar, che non so cosa siano, ma hanno nomi bellissimi. Gli sci sembravano dei giocattoli per adulti, alti, bassi, larghi, colorati, sciancrati e sciolinati. Ne ho preso in mano un paio arancioni e la commessa di prima, che ormai si era presa a cuore la mia causa, ha addirittura avuto il coraggio di dirmi: guarda, quelli stanno benissimo col colore dei suoi occhi. E lì Pietro è intervenuto dicendo che giusto, ecco cosa ci mancava ancora, gli occhiali da sole. Io fortunatamente mi sono ripreso dal torpore, ho detto che quelli ce li avevo. E alla fine ho comprato un paio di sci in saldo, degli scarponi usati, e me la sono cavata con una cifra ragionevole. E sono tornato a casa. Ho infilato tutto in una borsa, che ora è qui con me, in radio, perché appena finisco il programma, parto per questo weekend che già mi sembra una condanna. Di quelle cose che le pensi, le ripensi e sai che qualcosa andrà storto, per il solo fatto che ci stai pensando da troppo tempo ormai. Ma la cosa più strana che mi sentivo addosso non era l'abbigliamento da sci, era il fatto che dopo anni stavo facendo tutto questo non per me, ma solo ed esclusivamente per lei. And I don't know why. Since you said goodbye, polka dots fill the skies, and I don't know why. Io credo che Paolo da Bergamo si meriti un monumento con la faccia di Gerry Scotti, probabilmente. Cosa ha fatto Paolo da Bergamo per amore? Tutti i sabati sera del nostro fidanzamento, esattamente 5 anni, ho visto la corrida seduti sul divano, con suo padre alla mia destra. Posso raccontarvi tutte le puntate. Potete capire che la scomparsa del maestro Pregadio è stata per me la scomparsa di un amico. Paolo, sei... non so se sei un pazzo o se sei il mio idolo. Per amore ho fatto 2 lezioni di ballo latinoamericano. Ero e sono tuttora un pezzo di legno. Ogni anno il Grande Fratello, Sanremo, Non Solo Moda, è verissimo. Max, con chi stai Max? Con Cristina Parodi. Ho preso un aereo per andare a trovare in Kenya, mi sono preso l'ameba, che immagino sia una malattia. E dopo 5 giorni, e dopo che ci hanno bruciato la baracca e ci hanno rubato tutto, ci siamo lasciati. Bella lì, bravo Andrea. Mai ascoltato musica, mai in discoteca, mai un passo di danza, sono andato con lei a un corso di tango, Stefano Treviso. Credo che mediamente c'erano poche cose come la danza e lo sport per uno che non è capace che siano ridicole. 800 24 00 24 349 238 6666. Solo per amore si chiama la puntata di oggi. Ma facciamo un passo indietro, perché c'è un nuovo personaggio in tutta questa storia. È un personaggio che è spuntato un po' dal nulla. È spuntato perché quando c'è bisogno di scovare qualcosa che non va, bisogna avere anche la forza e il coraggio di crearsi una persona che non sei tu, che ha un altro nome, ma che sa andare dove tu non riesci ad andare. Signore e signori, Michela Pesca è qui con noi. Michela Pesca è apparsa ieri su Facebook, aveva 40 amici. Oggi ne ha... Dov'è? Oggi ne ha 597. A tal proposito, vogliamo lasciarla a 597? Non vogliamo farla arrivare a 600? Michela Pesca è su Facebook, ha il profilo, il profilo ha come foto, come immagine, un disegno di Milo Manara. Tra l'altro poi scatena anche non poche diatribe tra le persone che frequentano il suo profilo. Ad esempio, Elisabetta, probabilmente un po' infastidita perché non capisce cosa sta accadendo, dice: ma una con il nome normale qui dentro non c'è? E William risponde: ma siamo tutti reali, Elisabetta, e come fai a parlare tu per tutti? William, me lo hanno detto alla radio. Chiedete l'amicizia a Michela, ma soprattutto vi chiedo di consigliarle cosa andare a vedere, perché Michela ha appena postato: stasera cinema, che si va a vedere? Smack, smack, smack. Michela scrive smack a tutti quanti. Invece, se avete voglia di raccontarmi com'è andata quella volta che avete fatto una roba solo per amore ed è finita magari bene o magari no, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. La borsa e poi sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi invece siamo in Olanda. C'è un canale, direi, o un lago. No, è proprio un canale che ha sullo sfondo un mulino a vento, una casa con il tetto rosso, e delle, però rosso non di mattoni, che è proprio che è rosso colorato. E invece di qua, dalla riva, c'è un canneto. C'è una specie di molo in legno, ovviamente tenuto benissimo, e c'è una bicicletta appoggiata a questo molo. È una bicicletta verde, ha delle borse laterali nella parte posteriore per portare dei, che ne so, la roba per il lavoro, e dà tutto una grande sensazione di ordine. Marco Semozzi, 30 anni. Ci sono 13 km di bicicletta tra il mio appartamento ad Amsterdam e l'ufficio nella campagna olandese. È stato pedalando che ho scoperto i tuoi podcast. Ancora per poco, ma mentre ti ascolto, io sono qui. Come ancora per poco? Ah, perché è giusto, magari torno in Italia, quindi smetti di ascoltarci solo pedalando tra Amsterdam e il suo luogo di lavoro. Andate a vedere le foto sul sito radio24.it, alla pagina Io sono qui, e se volete continuare a mandarcene ancora, ce n'è spazio ancora. Io sono qui, @radio24.it, e sul profilo Facebook, Matteo Calcio, Io sono qui. La foto e anche una piccola didascalia per dirci dove siete. E poi la splendida Vittoria Mussini vi contatterà e vi obbligherà con la forza a registrare queste didascalie. Per amore, sono andato a diversi concerti gospel. Gualtiero è il migliore. Sono andato a diversi concerti gospel, una noia mostruosa, in quanto la mia ex cantava in un gruppo parrocchiale che faceva parecchi concerti. Appena mi ha lasciato lei, mi sono messo insieme alla mia attuale moglie, la quale, impegnata in politica, ci tiene che io partecipi come militante del suo partito, a diverse cene e congressi politici. La mia posizione è diametralmente opposta alla sua. E la noia continua, mi scrive lui. Andiamo però direttamente, andiamo da Pamela, perché prima sul mio profilo Facebook Pamela ha scritto che è andata a seguire dei vespri, giusto? Pronto Pamela? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui. So che avevi una riunione, stai lavorando adesso. No, sono a scuola, figlia. Ah, ok, lo stai recuperando il bambino? Già recuperata. E quindi ce l'hai già lì in mezzo alle palle come al solito, come tutti i giorni, è finita la giornata, neve. È finita la tranquillità, insomma. Infatti. Quanti anni ha il bambino? 7 anni. 7 anni, quindi è proprio nell'età molesta. Molto molesta. Molto molesta, benissimo. Pamela, veniamo invece ai vespri. Allora, ho ritrovato dopo tanti anni un amico, diciamo, sì, che abita in una bellissima città d'arte. Sì. Cosa ho fatto? Ho preso mia sorella, me la sono portata con una scusa della città d'arte, e poi siamo andati a cena il venerdì sera tutti insieme. Sì. Il sabato siamo andati la sorella in albergo per andare ai vespri sorali, in quanto lui è molto di chiesa e io... E tu sei nata ai Vespri, però non ho capito una cosa. Alla fine è rimasto un amico? Sono molto contento perché non se lo aspettava. Ma vi siete fidanzati poi? Vi siete sposati? No, purtroppo no. Come purtroppo? No, è rimasto. Cioè, no. Sei andata ai Vespri con lui e alla fine non l'hai nemmeno portato a casa? Non l'ho portato a casa. Vabbè, Pamela, però direi che adesso hai un figlio di 7 anni, quindi qualcuno te lo sarai portato a casa. No, ma infatti che l'ho fatta adesso la cosa. Ciao. 2 mesi fa. Ciao. Ma quindi, Pamela, spero che sia un nome finto il tuo. Eh? È un nome finto quello che mi hai dato, quindi. No, no, no. Ma tu sei una mamma single? No, assolutamente. Va bene, Pamela, credo che dovrò mettere giù il telefono, altrimenti ci intercettano. Saluta, no. Saluta tuo bambino. Comunque nessuno ascolta Radio 24, tranne me, nel giro dei miei amici, quindi sono andata per... Occhio però, perché nel giro di amici di Michela Pesca, invece, potresti essere facilmente beccata. Pamela, grazie mille. Niente, ciao. Ciao, alla prossima. Era serena anche, Pamela, andava proprio via liscia. Andiamo da Daniele di Treviso. Pronto, Daniele? Sì, ciao a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Tu hai fatto 5 ore di autostrada per andare dove? Allora, praticamente avevo bisticciato con quella che era allora la mia compagna. Fermati un secondo, Daniele, fermati un secondo. Hai usato un termine meraviglioso. Hai detto il termine che solo mia nonna usa ancora al posto di litigare, che è bisticciare. Di dove sei? Io sono di Treviso, dalla provincia di Treviso. Perfetto. E tu lo usi abitualmente il termine bisticciare? Sì. Benissimo. Mi impegno ad usarlo anch'io. Tu bisticci anche sul lavoro oppure solo... Di frequente, ma anche con grande piacere ti dirò. Benissimo. Anzi, bisogna coltivare l'arte del bisticcio. Del bisticciare, sono d'accordo. Quindi bisticci con la tua allora fidanzata, che cosa fai? Allora, bisticcio con la fidanzata e a quel punto ero studente universitario. Sì. A quel punto mi presento l'indomani con un dolce particolare, con una Facher presa a Innsbruck. Ah. Perché presa a Innsbruck? Perché più o meno un anno prima avevamo fatto un weekend a Innsbruck e ci eravamo fermati in una pasticceria meravigliosa in cui fanno una Sacher che è la fine del mondo. Quindi il giorno dopo tutto sto casino... Cioè sei andato fino a Innsbruck per prenderle la torta che a lei era piaciuta? Sì, esatto. Mi sono presentato lì con quello, devo dire la verità, anche l'aggiunta di panna. Di un vino adatto che era un moscatello, un moscato rosa. Il bisticcio è rientrato, Daniele? Ma sì, sicuramente. Poi non è più andato avanti, però quantomeno ci siamo presi una buona soddisfazione. Tu ogni quanto bisticci durante la settimana, Daniele? Dipende dalle persone, per dire, ci sono delle persone con cui riesco a farlo quotidianamente e in forma anche magari un po' più amorevole. Certo, perché comunque, scusami, ma io sono convinto che per bisticciare si debba essere in confidenza, altrimenti... Sì, questo è vero, però talvolta può assumere dei toni molto duri. Lo so. No, però Daniele, guarda, starei ora a parlare del bisticcio, però devo salutarti e sentire altri ascoltatori. Grazie mille, in bocca al lupo. Buona giornata. Ciao anche a te. Ciao. Vittoria Mussini mi scrive che l'ameba, presa in Kenya dall'ascoltatore che scriveva, è un parassita che può dare manifestazioni cliniche intestinali o extraintestinali. Strano, non l'avrei detto che era una roba che c'entrava con l'intestino. Andiamo da Andrea, perché Andrea ha scritto questo SMS. 8 sedute diocesane con mia moglie catechista. Sono da podio. Andrea, tu sei... Non da podio, tu sei, direi che sei... Te la giochi con quello della corrida, eh? Mi sa che... Sì, devo fare i complimenti anche a lui. Senti, scusa una cosa. Tu sei sposato adesso con questa donna? Sì, sono sposato da anni. E lei è ancora catechista? Sempre di più. Cioè è iniziato per dare un attenzione. Encomiabile. Ah, come no, certo. Per fare la catechista alla classe, sì. Alla classe della mia bambina, poi un'altra classe, eccetera, eccetera. Solo che poi si è trasformato anche in riunioni serali con le varie diocesi, interdiocesi. Senti, ma dicevi sempre di più perché si può crescere nella categoria di catechisti? Cioè si possono assumere ruoli più importanti oppure avere dei gradi maggiori, no? No, soltanto che ti danno sempre più... Solo di impegno. Ok, perfetto. Andrea, ti ringrazio molto. Sento le 4 frecce, quindi ti faccio ripartire. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Angelo mi ha scritto: mi ero iscritto al corso di tedesco perché lo faceva la più bella del liceo, ma sono finito in un'altra classe. Angelo. Pronto? Ciao. Sì, pronto, ciao. Di quanti anni fa parliamo? Parliamo di più di 30 anni fa. Beh, quanti anni hai adesso, quindi? Sono sulla cinquantina. Senti, parli il tedesco però? No, assolutamente. Neanche, perfetto. Quindi diciamo proprio due flop consecutivi, uno all'altro. E la ragazza non l'hai mai conosciuta? No, mai conosciuta, neanche più rivista. Senti, cosa fai adesso nella vita, Angelo? Dopo 30 anni come si è ridotta la tua vita, la tua esistenza? Ma ho diverse attività. Sei un imprenditore? Sì. Benissimo, mi piacciono gli imprenditori. Basta che tu non sia un consulente. Angelo, grazie mille, buona giornata. Io vorrei chiudere con un ascoltatore che ormai più che un ascoltatore è un metrapensé di questa trasmissione, che io amo sentire quando entra in ballo l'argomento donne o comunque relazioni sentimentali. Giacomo, per chi non lo conoscesse, è un ascoltatore di Catania che io ogni volta appena posso chiamo. Pronto Giacomo? Ciao Matteo. Come stai? Ma diciamo che ci difendiamo. Che succede oggi, Giacomo? Cosa c'è che non va? Beh, di bello, sì, sono solo perché mia moglie è andata a accompagnare mia nipote e Dove? A fare le faccende di casa a mia figlia, perché siamo nonne, però siamo a tempo diciamo pieno con loro. Io li accompagno la mattina, li vado a prendere. Però tu li accompagni e basta, Giacomo. Tu li accompagni e basta. Li vai a prendere, certo. Senti, volevo chiederti questa cosa. L'argomento della puntata di oggi, non so se lo stavi ascoltando, è praticamente una cosa di eclatante. Eclatante, in effetti, c'è stato che nel 76, sì? 76, quando io sono entrato in Zanussi. Aspetta Giacomo, una cosa per volta. Sei entrato in Zanussi, è l'azienda per cui lavoravi, giusto? Sì, perfetto. Ok, vai pure. E praticamente è successo che come è arrivata mia moglie là sopra, dopo l'indomani è successo il terremoto. Là sopra dove? A Pordenone, dove sta la Zanussi? Pordenone, sì, tutti quanti mi dicevano che è stato tua moglie a portare il terremoto dalla Sicilia. Ah, c'è stato il vero e proprio terremoto di Pordenone. Sì, sì, nel 76. Perfetto. Giacomo, senti, che cosa fai questo fine settimana? Questo fine settimana sono qua con tutte le mie figlie, perché ho tre figlie femmine, no? E sono un po' la gioia. Quindi c'è la riunione, perché qua si usa che la domenica si va sempre dai genitori, almeno le donne, anche qua ogni tanto capita, Giacomo. Giacomo, qua di più. Una volta sì. Ah. Giacomo, io ormai quando posso ti scomodo, lo sai ormai, Benissimo Matteo, mi fa piacere sentirti. E quel sogno lì non lo sto facendo più. Non lo stai facendo più il sogno? Siamo riconciliati. Grande, salutami tua moglie Giacomo, grazie, alla prossima. Ciao Matteo. Ciao. Grazie a Giacomo. Giacomo è il migliore. Giacomo, grazie a lui. Grazie a Vittorio Mussini, a Tiziano Bonini e a Paolino Corleoni. Lunedì non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?